di amore, come sono grandi le stelle nel cielo. E com'è bello sentirsi scivolare la notte nel cuore. Questa notte sul tetto ad ascoltare la canzone che l'universo ci sta per cantare. Adesso stringi la mia mano più forte ancora, questo silenzio mette un po' paura. Tira su e gira questa stanza, gira sempre più, sempre più. Una festa proibita come da copione, c'è perfino da seduto stanco un assessore. Gente per bene e di cultura che della vita non ha mai paura. Eleonora, andiamo via. Eleonora, andiamo via. Dove festa, da questa città.